cuore mio indiscreto, pace ancor non si dà. Sempre più sveglio, più irrequieto, che non si piega alla sua età. Oggi m'ha ricordato in gran segreto una signora di 30 anni fa. Nel 1919, vestita di vualpe e di chiffon, io v'ho incontrata non ricordo dove, nel corso pure a un ballo cotillon. Ricordo gli occhi solamente, segnati un po' con la matita blu. Poi vi giurai d'amarvi eternamente. Vi chiamavate, non ricordo più. La vita mia è perduta, se l'amor se ne va. Oggi il mio cuore che non muta, che non si piega alla sua età, cerca la sua signora sconosciuta, la sua signora di 30 anni fa. Ricordo il primo bacio che v'ho dato, tremando di emozione e di passione, un bacio lieve e timido posato fra quei capelli corti alla garçon. Poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste non ricordo più. Nel 1919 vi chiamavate forse Giovanni.